Il gesto. Nel contesto militare, gesticolare è generalmente poco appropriato. Tuttavia, durante conversazioni informali o quando non si è in servizio, il gesto può essere inevitabile. Quando il carabiniere deve parlare con un collega durante il servizio, è importante limitare i movimenti a semplici gesti della mano. In conversazioni informali è possibile essere un po' più espressivi, ma sempre evitando movimenti esagerati o volgari con le mani, le gambe o la bocca. Non bisogna mai toccare gli altri, battere il pugno, la mano o il piede con forza su tavoli o sul pavimento, per evitare di creare una cattiva impressione o rompere qualcosa. È fondamentale evitare movimenti esagerati che possono sembrare aggressivi. È sconveniente indicare qualcuno con il dito mentre si parla di lui. Per un carabiniere, questo può essere particolarmente dannoso, poiché potrebbe attirare l'attenzione e creare malintesi. Il carabiniere dovrebbe poi usare un altro elemento, anche più eloquente del gesto, e questo è lo sguardo.